ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. La mattina del quinto giorno, anzi il pomeriggio, sentì avvicinarsi un altro passo, più corto e più leggero, e questa volta la persona che entrò nella stanza era Zilla, avvolta nel suo scialle scarlatto, con una cuffia di seta nera in testa e un cesto di vimini appeso al braccio. «Santo cielo, signora Dean!» esclamò. «Sapesse quanto si parla di lei a Gimmerton? Io non potevo crederci che era sprofondata nella palude del Cavallo Nero e la signorina con lei, finché il padrone non mi ha detto che eravate state ritrovate e accolte qui. Ma vi siete rifugiate su un'isola, non è vero? E per quanto tempo siete rimaste in acqua? È stato il padrone a salvarvi, signora Dean, però non è per niente dimagrita. Non ha patito molto, vero?» «Il tuo padrone è un vero delinquente», risposi, «ma la pagherà per le sue azioni. Non c'era bisogno di raccontare questa storiella. Si verrà a sapere tutto». «Che cosa vuol dire?» domandò Zilla. «Non è una storiella e non l'ha raccontata lui. È quel che dicono in paese. Dicono che vi siete perse nella palude. E quando sono arrivata ho detto al signor Ayrton, sono successe cose strane da quando sono andata via. È proprio un peccato per quella bella ragazza e per Nellie Dean, una donna così robusta. Lui stava lì a fissarmi. Pensavo che non avesse sentito, così gli ho riferito quella voce». Il padrone ascoltava sorridendo tra sé e sé. Poi ha detto, «Se sono state nella palude, ora ne sono uscite. Zilla, in questo momento Nellie Dean si trova in camera tua. Puoi dire di andarsene quando sali. Ecco la chiave. L'acqua della palude le ha dato alla testa e voleva correre a casa in fretta e furia, ma io l'ho costretta a stare ferma finché non fosse tornata in sé. Puoi dirle di andare subito alla Grange, se se la sente, e portare da parte mia il messaggio che la sua signorina arriverà in tempo per il funerale del padrone». «Non mi dica che il signor Edgar è morto!» esclamai con voce rotta. «Oh, Zilla, Zilla!» «No, no, no, si sieda, mia cara signora», rispose lei. «Lei non sta ancora bene. Non è morto. Il dottor Kenneth pensa che possa durare un altro giorno. L'ho incontrato per la strada e gliel'ho chiesto». Invece di sedermi, afferrai scialle e cuffia e mi affrettai a scendere, visto che la strada era libera. Entrando in sala, mi guardai attorno alla ricerca di qualcuno cui chiedere notizie di Catherine. La stanza era invasa dal sole e la porta spalancata, ma sembrava che non ci fosse nessuno. Mentre mi chiedevo se andarmene immediatamente o tornare a cercare la mia padrona, un colpetto di tosse mi fece voltare la testa verso il focolare. Linton era sdraiato su una panca tutto solo e succhiava un bastoncino di zucchero mentre seguiva i miei movimenti con occhi apatici. «Dov'è la signorina Catherine?» chiesi con durezza, pensando di riuscire a farmi dare informazioni spaventandolo, visto che era lì tutto solo. Lui continuò a succhiare come un innocentino. «Se n'è andata?» chiesi. «No», rispose. «È di sopra. Non deve andare via. Non la lasceremo andare». «Non la lascerete andare, piccolo idiota!» esclamai. «Dimmi immediatamente qual è la sua stanza, o vedrai se non ti faccio cantare». «Papà farà fare gli acuti a te se provi a cercarla», rispose. «Dice che non devo essere tenero con Catherine. È mia moglie ed è vergognoso che voglia abbandonarmi. Dice che lei mi odia e vuole che io muoia per avere i miei soldi, ma non li avrà e non se ne andrà a casa, mai. Può piangere e stare male quanto vuole». E ricominciò a succhiare chiudendo gli occhi come se stesse per appisolarsi. «Signorino Linton», ripresi io, «non si ricorda più come è stata buona con lei Catherine l'inverno scorso, quando lei diceva di amarla e le portava i suoi libri e le cantava le canzoni e ha affrontato più di una volta il vento e la neve per venire da lei? Piangeva se una sera non poteva venire perché sapeva che lei sarebbe rimasto deluso. Da quell'epoca lei pensava che Catherine fosse troppo buona e adesso crede alle bugie che le racconta suo padre, mentre sa benissimo che lui vi detesta entrambi e si schiera dalla parte sua contro Catherine. Bella gratitudine davvero!» Linton fece una smorfia e si tolse di bocca il bastoncino di zucchero. E forse venuta a Cime Tempestose perché la odiava? Continuai. Pensi con la sua testa. E per quanto riguarda i suoi soldi, Catherine non sa neppure se ce ne saranno o no. Mi dice che sta male e la lascia sola lassù in una casa estranea. Proprio lei che dovrebbe sapere che cosa vuol dire venire abbandonati a se stessi. Si compatisce e si fa compatire da Catherine, ma di lei non ha pietà. Io piango, signorino Heathcliff, lo vede? Io soltanto una domestica. E lei, dopo averle dichiarato tanto affetto, lei che avrebbe motivo di venerarla, lei risparmia le lacrime per se stesso e se ne resta qui tutto tranquillo. Che ragazzo egoista e senza cuore. Non posso stare con lei, mi rispose bruscamente. Non voglio starci da solo. Si dispera talmente che non lo sopporto. E non la smette, anche se le dico che chiamo mio padre. Una volta l'ho chiamato e lui ha minacciato di strangolarla se non stava zitta. Ma lei ha ricominciato non appena lui è uscito. Geme e si lamenta per tutta la notte, anche se io urlo dalla rabbia perché non mi lascia dormire. Il signor Heathcliff è fuori? Chiesi, vedendo che quel miserabile non era in grado di provare alcuna pena per l'angoscia di sua cugina. È nel cortile, sta parlando col dottor Kenneth, il quale dice che lo zio sta morendo davvero finalmente. Ne sono contento, perché dopo di lui sarò io il padrone della Grange. E Catherine, che ne ha sempre parlato come di casa sua, non è sua, è mia. Papà dice che tutto quello che ha lei è mio, tutti i suoi bei libri sono miei. Me li ha offerti, e anche i suoi begli uccellini e il suo pony Minnie, se io le davo in cambio la chiave della nostra stanza e la facevo uscire. Ma io le ho detto che lei non aveva nulla da offrirmi, perché tutte quelle cose erano mie, tutte mie. Allora si è messa a piangere, ha preso un medaglione che porta al collo e ha detto che mi dava quello. Sono due ritratti in un medaglione d'oro, da un lato sua madre e dall'altro lo zio, da giovani. Questo è successo ieri. Le ho detto che anche quelli erano miei e ho cercato di prenderli. Quella dispettosa non mi lasciava fare, mi ha spinto via e mi ha fatto male. Mi sono messo a urlare, questo la spaventa. Ha sentito arrivare papà e ha rotto la cerniera che li teneva uniti e mi ha dato il ritratto di sua madre cercando di nascondere l'altro. Ma papà ha chiesto che cosa succedeva e io gliel'ho spiegato. Lui mi ha preso il mio ritratto e ha ordinato a lei di dargli il suo. Lei non voleva e lui l'ha colpita e gettata a terra. Poi le ha strappato la catenella e ha schiacciato il medaglione sotto i piedi. E a lei ha fatto piacere vederla picchiare? Chiesi, avendo i miei motivi per incoraggiarlo a parlare. Ho chiuso gli occhi, mi rispose. Chiudo sempre gli occhi quando mio padre picchia un cane o un cavallo. Picchia così forte. Però all'inizio mi ha fatto piacere. Meritava di essere punita per avermi spinto. Ma quando papà se n'è andato, lei mi ha chiamato vicino alla finestra e mi ha fatto vedere che si era tagliata all'interno della guancia contro i denti e che aveva la bocca piena di sangue. Poi ha raccolto i pezzetti del ritratto ed è andata a sedersi con la faccia al muro. E da allora non mi ha più rivolto la parola. Certe volte penso che non possa parlare per il dolore. Ma non mi piace pensare questo. Ma lei è cattiva a piangere in continuazione. Ed è così pallida e sconvolta che mi fa paura. E lei potrebbe avere la chiave se volesse? Chiesi. Sì, quando sono di sopra, disse. Ma ora non posso salire. In quale stanza si trova? Questo non te lo dirò, gridò lui. È il nostro segreto. Non deve saperlo nessuno, neppure Herton, né Zilla. «Basta, mi hai stancato, vattene, vattene!» E tornò ad appoggiare la testa sul braccio e chiuse gli occhi. Pensai che fosse meglio andarmene senza vedere il signor Heathcliff e mandare aiuti alla mia signorina dalla Grange. Quando arrivai, i miei colleghi furono estremamente stupiti e contenti di vedermi e quando vennero a sapere che anche la padroncina era sana e salva, due o tre di loro stavano per precipitarsi gridando a dare la notizia al signor Edgar, ma io volli dargliela personalmente. Come lo trovai cambiato, pur dopo pochi giorni. Nel suo letto era l'immagine della tristezza e della rassegnazione, in attesa della morte. E come sembrava giovane, in realtà aveva 39 anni, ma gliene avreste dati almeno 10 di meno. Il suo pensiero era rivolto a Catherine, perché mormorò il suo nome. Io gli toccai la mano e gli parlai. «Catherine sta arrivando, mio caro padrone», sussurrai. «È viva e sta bene, e sarà qui stasera, spero». L'immediato effetto di questa comunicazione mi allarmò. Si tirò su a metà, gettò uno sguardo impaziente attorno a sé e poi ricadde svenuto. Non appena si riprese, gli raccontai della nostra visita involontaria e della prigionia a Cime Tempestose. Gli dissi che Heathcliff mi aveva costretta ad entrare, il che non era del tutto vero. Dissi il meno possibile contro Linton e non descrissi nei dettagli neppure il comportamento brutale di suo padre. Non avevo intenzione di aggiungere altre amarezze al suo calice già fin troppo pieno, se potevo farne a meno. Lui indovinò che uno degli scopi del suo nemico era di assicurare a suo figlio, anzi a se stesso, il patrimonio personale di Catherine, oltre che le terre. Ma perché non aspettasse fin dopo la sua morte, era un mistero per il mio padrone, il quale non sapeva che lui e suo nipote erano destinati ad andarsene più o meno nello stesso momento. Ritenne fosse meglio cambiare il suo testamento. Invece di lasciare la fortuna di Catherine a disposizione della beneficiaria, l'avrebbe affidata a dei fiduciari che l'amministrassero, versando nell'usufrutto a lei e dopo di lei ai suoi figli, se ne avesse avuti. In questo modo, se Linton fosse morto, il denaro non sarebbe caduto nelle mani del signor Heathcliff. Ricevuti questi ordini, mandai un uomo a chiamare il notaio e altri quattro, provvisti di armi, a liberare la signorina dal suo carceriere. Sia l'uno sia gli altri tardarono molto a tornare a casa. Arrivò per primo il domestico che era partito da solo. Mi disse che era arrivata alla casa del signor Green, il notaio. Non l'aveva trovato e aveva dovuto aspettare 2 ore prima che tornasse. A quel punto il signor Green gli aveva detto che aveva un affaruccio da sbrigare in paese, ma che sarebbe stato alla Grange prima della mattina seguente. Anche i 4 uomini tornarono indietro da soli. Riferirono che Catherine stava male e non poteva lasciare la sua stanza e che Heathcliff non aveva permesso loro di vederla. Sgridai quei 4 stupidi che avevano dato retta a quella storia che non volli riferire al padrone. Decisi che la mattina dopo all'alba sarei andata a Cime Tempestose con un'orda di gente e che l'avrei presa letteralmente d'assalto se non ci avessero consegnato la prigioniera con le buone. Promisi solennemente a me stessa che suo padre l'avrebbe vista, a costo di uccidere quel diavolo sulla soglia di casa sua, se avesse cercato di opporsi. Fortunatamente mi furono risparmiati il viaggio e il fastidio. Alle 3 ero scesa a prendere dell'acqua e stavo attraversando l'ingresso con la brocca in mano quando un secco colpo alla porta mi fece sobbalzare. «Oh, è Green», dissi ricordando, «è solo Green», e proseguì pensando di mandare qualcun altro ad aprire. Ma il colpo fu ripetuto insistentemente, anche se non troppo forte. Appoggiai la brocca vicino alla ringhiera e mi affrettai a farlo entrare io stessa. L'ultima luna piena di settembre faceva un bel chiarore fuori. Non era il notaio. La mia cara padroncina in persona mi saltò al collo singhiozzando. «Ellen! Oh, Ellen! Ellen! Papà è ancora vivo!» «Sì!» gridai. «Sì, angelo mio, è vivo! Dio sia ringraziato, è sano e salva, è di nuovo con noi!» Voleva correre di sopra nella stanza del signor Linton, così, senza fiato com'era, ma io la feci sedere, gli diedi da bere, le lavai il viso smorto e gliel'asciugai con il mio grembiule, strofinandolo per dargli un po' di colore. Poi le dissi che dovevo salire prima io ad annunciare il suo arrivo e la implorai di dire che sarebbe stata felice con il giovane Heathcliff. Lei mi fissò, ma rapidamente comprese perché le consigliavo di dire quella menzogna e mi assicurò che non si sarebbe lamentata. Non ebbi cuore di assistere al loro incontro. Rimasi fuori dalla porta per un quarto d'ora e anche dopo non osai quasi avvicinarmi al letto. Ma la scena era tranquilla. La disperazione di Catherine fu silenziosa quanto la gioia di suo padre. Lei, apparentemente calma, lo sorresse e lui la fissò in faccia con occhi che sembravano dilatarsi estaticamente. Morì felice, signor Lockwood, morì così. Baciandole la guancia, mormorò: «Sto andando da lei e tu, bambina cara, ci raggiungerai». Non si mosse né parlò più, ma gli rimase quello sguardo rapito e radioso finché il suo polso si fermò e la sua anima se ne andò. Nessuno avrebbe potuto accorgersi del momento esatto in cui morì. Non ci fu nessuna lotta, nessuna resistenza. Catherine, o perché aveva esaurito le lacrime, o perché il suo dolore la opprimeva troppo per consentirle di piangere, restò lì a occhi asciutti finché non sorse il sole. Rimase fino a mezzogiorno e sarebbe rimasta ancora immersa nei suoi pensieri su quel letto di morte se non avesse insistito per farla venire via e mandarla a riposare. Fu un bene che fosse riuscita a mandarla via, perché all'ora di pranzo comparve il notaio, dopo essere stato a Cime Tempestose, a chiedere istruzioni su come comportarsi. Si era venduto al signor Heathcliff, perciò aveva tardato a rispondere alla chiamata del mio padrone. Fortunatamente, dopo l'arrivo di sua figlia, nessun pensiero per le faccende di questo mondo era passato per la mente del signor Linton. Il signor Green si assunse l'incarico di dare ordini in casa. Licenziò tutti i domestici tranne me. Si sarebbe spinto, con l'autorità che gli era stata delegata, fino al punto di insistere perché Edgar Linton non venisse sepolto accanto a sua moglie, bensì nella cappella insieme con la sua famiglia. Tuttavia c'era il testamento a impedirlo e le mie violente proteste contro ogni violazione delle sue volontà. Il funerale si fece in fretta e furia. A Catherine, ormai signora Heathcliff, venne permesso di rimanere alla Grange finché la salma di suo padre non avesse lasciato la casa. Mi disse alla fine che era stato il suo folle dolore a spronare Linton a correre il rischio di liberarla. Lei aveva sentito gli uomini mandati da me discutere animatamente sulla porta e aveva capito il senso della risposta di Heathcliff. Si era disperata a tal punto che Linton, che era stato trasportato nel salottino di sopra poco dopo che io me ne ero andata, atterrito, si era deciso ad andare a prendere la chiave prima che suo padre risalisse. Aveva avuto l'astuzia di aprire e richiudere la porta a chiave, ma lasciandola accostata. Poi, all'ora di andare a letto, aveva chiesto di poter dormire con Ayrton e per una volta la sua richiesta era stata accolta. Catherine era uscita di nascosto prima dell'alba. Non aveva osato passare dalla porta per timore che i cani dessero l'allarme. Aveva esplorato le stanze vuote, esaminando le finestre, e aveva avuto la fortuna di trovare quella che era stata di sua madre, da dove era potuta uscire senza fatica e scivolare a terra lungo i rami dell'abete vicino. Il suo complice, nonostante i suoi prudenti stratagemmi, pagò cara la parte che aveva avuto nella fuga.